Durante le giornate del 9, 10, 11 dicembre si è svolto nella località di Trento, a Sardegna, il sesto convegno internazionale su matriarcato e montagna. Il 10 dicembre, giornata internazionale della montagna, si è parlato di donne e resistenza. In questa occasione la dottoressa Maria Teresa Sega ci presenta Donne, Alpi, Resistenza e Memoria. La professoressa collabora inoltre con l'Istituto Veneto di Storia della Resistenza. Questo ed altri documenti li potete trovare in scatolanera.ch. Ho un po' smentatamente accettato di sostituire Estilia Alessandrone Verona, come è il nome che trovate in realtà nel programma, e chiaramente non sono in grado di sostituirla, perché Estilia Verona è una storica piemontese che da moltissimi anni si occupa della storia della resistenza appunto in Piemonte, e in una regione non solo che ha una grossa tradizione della resistenza, della memoria della resistenza e della storiografia resistenziale, ma in cui la presenza della montagna è assolutamente importante. Tra l'altro quest'anno per il 60esimo l'Istituto Piemontese ha proprio organizzato un convegno sulla resistenza e la montagna. Ecco, quindi quello che io vi propongo oggi è un mio personale percorso di lettura alla ricerca appunto della montagna nella letteratura resistenziale, per me, che vivo tra l'altro in una città della Luna, vivo a Venezia, e ve lo propongo così appunto, come in questi giorni sollecitata appunto dalla partecipazione a questo convegno, e ringrazio per questo invito, perché per me è davvero un'occasione di conoscere questo lavoro e queste ricerche, ma anche perché mi ha dato uno stimolo appunto per pensare, no, mi ha stuzzicata a pensare a questo rapporto tra la resistenza e la montagna. La resistenza è associata alla montagna, no? Nella mente di tutti noi, come ha ben ricordato Michela prima, lo è nella memorialistica, lo è appunto nella memoria. Vi ricordo soltanto che c'è un libro scritto da Giorgio Bocca, appunto sulla storia della resistenza, che si intitola proprio Partigiani in montagna. Inizia con un capitolo intitolato Verso la montagna. Ecco, allora, poi la letteratura è ricca, diciamo, no, di esempi di questo andare in montagna. Vi ricordo il partigiano Johnny, ad esempio, di Fenoglio, ma tutti i libri di Fenoglio, e in particolare a me è molto caro I piccoli maestri di Luigi Meneghello, che è un autore vicentino che ha fatto appunto la resistenza nella Totiana di Asiago, perché mi sembra che esemplifichi bene questo andare in montagna per molti giovani di quella generazione come scelta di rottura. Lui la racconta proprio come una decisione, una scelta che di rottura della vita di studenti di città, anche se lui era originario poi dell'altipiano appunto, anzi di Malo, e un avveramento della formazione precedente, un passaggio necessario per approdare a un cambiamento di cui ancora allora non si intravedevano i contorni, però c'era questo forte desiderio, questa forte spinta al cambiamento, di reagire a quella situazione che si era creata. La montagna, dice Meneghello, era il posto migliore per isolarci dall'Italia, dal mondo. Intendevamo reagire con la guerra e l'azione, ma anche ritirarci dalla comunità, andare in disparte. C'erano insomma due aspetti contraddittori nel nostro concetto della banda. Volevamo combattere il mondo, volevamo sfuggirlo, ritirarci quasi in preghiera, quasi in meditazione, no? Sentivamo la guerra come crisi ultima, la prova che avrebbe gettato una luce cruda non solo sul fascismo, ma sulla mente umana, l'educazione, la natura, la società. C'è una sensazione di crollo delle certezze, anche di tutta la cultura precedentemente acquisita, la necessità di una rigenerazione e dunque la resistenza in montagna come passaggio proprio iniziatico a un nuovo mondo, a una nuova vita, attraverso la scoperta di un altro mondo di gente semplice, portatrice di valori autentici. C'è una pagina appunto nel libro di Meneghello in cui racconta le vicende del rastrellamento del 44, durante la quale lui riesce a sfuggire e si trova, sconfina nella Val Sudana, diciamo, e trova rifugio in una grotta ed è salvato da alcuni montanari che lo nascondono e lo nutrono. E lì sente, cito, il linguaggio delle cose era che il linguaggio delle cose era semplice e chiaro, gli fa sembrare inutile tutta la cultura presa in anni di studi, e inizia anche una sua, come dire, revisione critica di questa cultura, e la scoperta anche della cultura popolare, appunto, delle genti di montagna, che poi porterà diciamo, molto lontano. L'altopiano diventa il luogo che fonda una nuova identità e diventerà il luogo della memoria. Allora, l'andare in montagna, anche nel suo significato, nel suo valore diciamo metaforico e simbolico, è un'esperienza maschile fondamentalmente per i giovani di città, che rappresentava proprio il cambiamento del proprio stile di vita borghese, anche il rifiuto di quella diciamo cultura presa nella scuola fascista. E in certi casi anche il desiderio di, per molti ragazzi che anch'io ho intervistato nella città, giovani, studenti, non ancora con l'obbligo di leva, alcuni vanno in montagna a 16-17 anni, non avevano nemmeno l'obbligo di leva, quindi spinti diciamo dalla necessità di entrare in clandestinità, di fuggire, fare qualche cosa di più di magari quell'attività clandestina che già facevano in città, la vera guerra, andare a fare la vera guerra, la resistenza, combattere con le armi. In queste testimonianze che io ho raccolto, ma in tutte le testimonianze, ci sono soventi riferimenti a questa vita appunto nei boschi, soventi riferimenti al selvaggio, vivere alla macchia come animali, nutrirsi di castagne e funghi, riconoscere i vari odori, eccetera, eccetera. Un mio testimone dice: io ero diventato un animale, proprio selvatico, ero diventato forte e veloce, scalavo le montagne e così riuscivo a sfuggire ai tedeschi che erano lenti, perché no, tutti gli carichi di armi, eccetera. Si partiva spesso con i vestiti da città, con scarpe leggere, magari estive, con il fucile nella valigia o anche disarmati, e dopo pochi mesi i vestiti erano brandelli, ci si metteva addosso tutto quello che si trovava, con risultati davvero bizzarri. C'è una bella pagina della Bettina Mellin che descrive appunto come questi, ma si vedono anche nelle fotografie, no? Sono vestiti con le foce più strane, con i capi più strani, i pantaloni corti, i pantaloni lunghi, mutande della nonna che escono dai pantaloni corti, eccetera. Quindi l'andare in montagna rappresenta anche per questi ragazzi l'incontro con un altro mondo, appunto con la popolazione di montagna, con donne, come ha ricordato Michela, che si prendono cura di loro, stendono proprio una rete protettiva, li portano sulle loro spalle, letteralmente. Vi leggo questa testimonianza di Michele Della Vittis. Camminavo sempre per le campagne, racconta appunto il suo andare in montagna, in Friuli, mai per le strade, per evitare i pericoli. Un giorno sono arrivato sul greto di un fiume sterminato, tutto coperto di ghiaia, avevo le scarpe di gomma, mi facevano male i piedi e l'acqua era gelata. Mi sono seduto sconsolato, dicendomi che non ce l'avrei mai fatta passare attraverso quelle acque gelide. Ma è successa una cosa commovente. Ho sentito una voce che diceva: «Puer frut», povero ragazzo in friulano, con l'accento dolce friulano. Milano e ho visto una donna molto forte, giovane ancora, con una gerla che mi veniva incontro. Lei aveva capito subito la mia situazione. Mi ha caricato sulle spalle e mi ha portato di là del fiume. Ecco, c'è anche un'idealizzazione di queste figure, perché sono viste come figure mitiche, queste donne forti, no? Che contrastano appunto con l'immagine femminile delle ragazze di città, anche delle compagne di scuola. E c'è anche nella resistenza e nella memoria della resistenza, un rovesciamento dei ruoli e delle immagini tradizionali del maschile e del femminile, uomini in condizioni di debolezza, di difficoltà e di bisogno e donne che li soccorrono. La resistenza delle donne è diversa, da quella degli uomini, spesso anche separata, ma anche per loro rappresenta una rottura. Non c'è l'andare in montagna con questo significato metaforico, ma ci sono anche donne che vanno in montagna. Non c'è l'obbligo di nascondersi come per il renitente la leva, e agiscono piuttosto la maggior parte, diciamo, delle donne che partecipano alla resistenza, rimanendo in bilico tra questi due mondi, al confine, quello della normalità quotidiana e quello della clandestinità e dell'azione clandestina, dell'azione di guerra, continuamente passando da uno all'altro. Partecipano alla resistenza con motivazioni e modi molto diversi, aiutano i figli, i mariti, i fratelli, spesso li seguono in brigata, sono spesso ragazze giovani e giovanissime, studentesse, operaie, contadine, impiegate. Ci sono le figlie di famiglie antifasciste che hanno visto i padri, le madri, i fratelli subire violenze, carcere e confino. L'attività clandestina è qualcosa di naturale per loro, a cui tutta la famiglia partecipa. Ci sono ragazze per le quali invece è fatta l'insaputa dei genitori, aderendo a un passaparola del gruppo di amici, e assume un carattere anche trasgressivo, con forte valenza adolescenziale. Le ragazze dell'azione cattolica o della FUCI, l'organizzazione cattolica universitaria, passano dall'impegno caritativo, aiutare i soldati sbandati, prigionieri e alleati fuggiti, nascondere ebrei, a una scelta consapevole come reazione alle leggi dello Stato fascista dei nazisti occupanti che violano la libertà e la dignità delle persone, e sperimentano nella resistenza, cioè molte donne cattoliche nella resistenza, veneta in particolare, un modo di imperare l'insegnamento evangelico accanto appunto a chi soffre. Non mi dilungo a descrivere modi e le forme e tutta questa attività, e anche a descrivere la soggettività di queste donne che hanno fatto questa scelta e hanno compiuto queste azioni. Dico soltanto, ecco, per ribadire quanto già Michela ha già ben reso il significato di quella che è stata la resistenza per le donne. Questo disastro totale dell'Italia dopo l'8 settembre, appunto, i soldati allo sbando, le istituzioni crollate, il nord Italia occupato dai tedeschi, le donne reagiscono, c'è una reazione e un attivarsi senza chiedersi appunto se no ai pericoli ai quali vanno incontro, senza preoccuparsi per il prezzo che da pagare e che pagheranno altissimo. Reagiscono per garantire la continuità della vita, per salvare le vite, per garantire un minimo di tenuta della comunità, delle relazioni umane, un minimo di tenuta della dignità umana, e questo appunto fanno. È anche una reazione morale, come molti testimoni dicono, cioè l'insopportabilità per il regime, per la guerra, per le violenze che vedevano continuamente nelle strade intorno a loro. La maggior parte delle partigiane inquadrate nelle brigate hanno compiti di assistenza e di collegamento, fanno le staffette appunto, percorrono chilometri a piedi in bicicletta, con mezzi di fortuna di giorno e di notte, dalla pianura alla montagna e viceversa. Incredibile quanta strada fanno le partigiane, anche ragazze che fino ad allora magari non erano abituate a tanto allontanarsi da casa o da un ambiente abbastanza ristretto, limitato. Senza questo infaticabile lavoro di tenuta dei rapporti, delle relazioni, come sarebbe stato possibile sopravvivere per le brigate in montagna? Le donne garantiscono quindi i rapporti tra le brigate e il territorio, e tra le brigate tra di loro e tra i comandi e le brigate. Portano informazioni e notizie. Scrive Sarzia Amadè nel suo libro di Memoria della Resistenza, intitolato Corrente Sassi, che ha fatto il partigiano nelle montagne bellunesi. Ogni tanto arriva una staffetta che viene a prendere degli ordini e porta le novità da tutte le altre brigate e da tutti i distaccamenti sparsi per le montagne, e da allora sono racconti di azioni strepitose, sparatorie e combattimenti. Le staffette sono le narratrici che aiutano a non sentirsi isolati, portano assieme ai messaggi, alle sigarette, alle scarpe isolate, al cibo, storie che fanno sopravvivere e venir voglia anche di agire, di non stare ad aspettare. Ma ci sono anche le partigiane combattenti. Io vado molto veloce, procedo come dire per figure. Le partigiane ricercate, per esempio, che devono nascondersi e che raggiungono le brigate in montagna e vivono con i partigiani, ne condividono le fatiche e vivono assieme nelle caselle abbandonate, nelle grotte, nei bunker, che sono buchi mimetizzati nel territorio. Cito sempre dal libro di Sarzia Amadè: dentro il bunker ci si vede poco e siamo tutti come ombre pallide che non possono muoversi in otto dove ci si sta in sei. Io sono schiacciato tutto contro un angolo e ho le gambe sopra quelle di Tino e Tino le ha su quelle di Sergio, un bel incastro. La Gianna e la Katia sono lunghe distese e la Katia ha la testa appoggiata lungo il tubo freddo del mortaio. Giovanni Melanco, commissario della Brigata Fulmine, sempre nel bellunese, il comandante Alfredo, che aveva 19 anni, racconta di Anna Rosa, la sua staffetta, che è la giovane figlia 17enne di un casaro, appunto delle montagne bellunesi sopra Revine, e dice di Anna Rosa: sale ogni giorno il ripido pendio con un secchio di caffè latte e sulla schiena porta una gerla di pane e polenta fredda, distribuisce a ognuno la sua razione, porta le notizie della giornata precedente e ci informa se in quel momento tutto è tranquillo. Un mattino sono solo e dormo nel buco del bunker. Anna Rosa mi sveglia, mi riempie la gavetta del suo caffè latte ben zuccherato, si siede di fianco a me e mi guarda con i suoi occhioni neri. È una bella ragazza, tutto intorno è tranquillità e pace. L'ambiente sembra favorevole all'amore, ma l'atmosfera di guerra mi induce a pensare al dovere. Ci sono altre pagine in cui appunto c'è questo riferimento, come dire, al desiderio di amore, al fatto di essere giovani, pieni di vita, ma appunto poi insomma prevale anche quella che era, come dire, la moralità che c'era all'interno delle brigate, per cui ci si asteneva da rapporti appunto tra partigiani e partigiani, ma comunque no, c'è questa dimensione anche dell'amore. Ci sono donne che rimangono nelle loro case e le trasformano in rifugi per i partigiani o in punti di riferimento per chi cerca la strada di montagna, per chi deve nascondersi, per sostare e ristorarsi negli spostamenti, come la casa di Marcellina, Monte di Calvene, 1300 metri nell'Alto Vicentino, dove vive sola. La conoscono come la mamma dei partigiani, che lei aiuta perché, dice Marcellina, erano dei nostri, erano del popolo o stavano con il popolo. Qui si sente appunto, no, anche l'aspetto di sostegno popolare alla resistenza. I fascisti stavano con i padroni e io stavo con gli sbandati in montagna, perché so che quando si patisce la fame si sta male. Volevo bene a tutti, ma di più ai più disgraziati. O sempre nel Vicentino la mamma Teresa della Casetta Rossa di Non volevo di Villa Verla, o la contessa Giuliana Fuscolo, la cui villa a Casteggiardo di Trichiana, nel Bellunese, nasconde una radio trasmittente della missione americana ed è punto di riferimento della resistenza delta. O la casa delle REC ai Morganti di Folgaria, qui nel Trentino, tutta una casa tutta di donne. Netta Rett poi scrive un libro di memorie intitolato appunto La casa ai Morganti, qui racconta come nella primavera del 44, quando la vecchia brigata Gremi si ingigantisce e diventa brigata Pasupiana, fu così, dice, che la casa delle Rett divenne il nido della resistenza. Il nido della resistenza perché diventa una casa che non solo ospita, ma punto di riferimento, punto di transito, da cui tra l'altro la mamma Gilda, loro erano tre, la mamma Gilda, la zia Maria e la Netta, appunto, la mamma Gilda, e dice, era la più coraggiosa, giù lungo la valle dove i tedeschi avevano messo le scritte bandite in Gebait, cioè zona di banditi, lei sempre a piedi si recava nel posto dove doveva andare, talvolta chiedeva un passaggio agli stessi tedeschi, e con i messaggi sotto la camicia arrivava a destinazione e via e di seguito, insomma. Delle molte donne, dopo di me Nives Fedrigotti vi parlerà della resistenza nel Trentino e Adriana Dall'Otto di Tina Merlin. Delle donne della montagna piemontese vi avrebbe parlato che sia Silvia Perona, tra l'altro appunto ci sono degli interessantissimi libri di testimonianze sulla resistenza femminile in Piemonte, come La resistenza taciuta e altri, il libro di Guidetti Serra, Compagno, e il libro di Anna Brava, Anna Maria Bruzzone, In guerra senza armi. C'è il bellissimo diario partigiano di Ada Gobetti, sul quale un pochino vorrei soffermarmi. Ada Gobetti, torinese, che vive tra Torino e la casa di Meana in Val di Susa, e tutta la sua vicenda resistenziale, raccontata appunto in questo diario, si svolge tra queste due case di città e di montagna, e nella Val di Susa e le montagne che sono da sfondo, i viaggi continui per tenere i collegamenti, per cercare il figlio, che è il partigiano, portare messaggi e di andate e ritorni a casa. E tutto questo in una natura bellissima che lei ama molto, che è anche il teatro, c'è questo contrasto tra la bellezza della natura e la tragedia della storia. Di cui questa natura è teatro. Il figlio Paolo e i suoi compagni alla macchia, braccati dai soldati tedeschi, dai fascisti, i rastrellamenti, le relazioni, gli scontri, case e paesi bruciati, impiccagioni, rappresaglie. E su tutto questo una natura madre materna che contrasta con la violenza della storia. Verso la fine del diario c'è il racconto di un viaggio che compie con un gruppo di compagni tra la fine del gennaio e i primi del febbraio del 45, quindi siamo ancora in inverno, oltre i confini in Francia a piedi, attraversando le montagne e ritorno per stabilire contatti. E appunto a un certo punto, mentre sono dentro un rifugio di notte, guardando fuori, scrive: di dispegnersi le ultime stelle, la luce avanzare lentamente nel cielo, la montagna destarsi nell'immenso silenzio. Ero perfettamente calma, non provavo più né esaltazione né angoscia né rimpianto né ansia né desiderio. Ero in uno stato d'animo di perfetta e quasi animale aderenza alla realtà. Un inconscio istinto mi impediva di pensare, di tormentarmi, una lucida calma inumana. E ancora, quando giunsi in cima, nonostante la stanchezza e l'affanno, per poco non gettai un grido di meraviglia ed ammirazione. S'era levata la luna e la parte superiore del ghiacciaio splendeva azzurra come una miracolosa cascata immobile, mentre la parte piana s'apriva sotto di noi, vellutata e morbida, come una magica pista. Eravamo ormai giunti al punto in cui i rapporti umani sono ridotti al loro significato essenziale, questa salita, non verso la montagna. Quando giunsi alla vetta dimenticai di colpo la stanchezza, tanto era fantastico lo spettacolo che soffriva ai miei occhi. Era un immenso scenario in cui le montagne si succedevano, una catena dietro l'altra, senza fine, picchi, guglie, massicci, fusi in un unico intanto, dalla rosea, luce dell'alba, Olimpo, Valhalla, questa dimensione, no, quasi divina. Chi va alla montagna è come se andasse da sua madre, pensai, e sentii nella solidità impassibile della montagna qualcosa di primevo, cioè dell'originario, essenzialmente, fondamentalmente materno. Qual è il carattere del materno così avvertito? È il materno come rifugio, come ritorno all'umanità, ai luoghi noti dell'origine, ma è anche la madre patria. Alla vista delle nostre montagne, dice, la stanchezza scompare di colpo, mi sentii gli occhi pieni di lacrime, eravamo arrivati, eravamo in Italia finalmente, e comincia la discesa al fondo della quale avremmo trovato la tanta agognata e tanto desiderata grangia del corallo, ecco, una casa di montagna, no? Abitata da questa famiglia, laggiù c'è la mamma, c'è la mucca, c'è il fuoco, c'è il calore, c'è il cibo, c'è il nutrimento, e la donna, no, come nutrimento. E continuava a ripetere Eraldo, che è appunto il figlio del corallo, e quella semplice frase suonava alle mie orecchie come una musica del paradiso. Vedere un volto di donna mi pareva una cosa meravigliosa, questo viaggio l'aveva fatto lei da sola con un gruppo di uomini. Mi sentivo sporca, spettinata, lacera, avevo i pantaloni a brandelli, mi pareva che soltanto una donna potesse capire tutte queste cose e aiutarmi con la sua muta simpatia. Una donna che ci avrebbe preparato da mangiare, che ci avrebbe sistemato un giaciglio a cui avrei potuto cedere la responsabilità di organizzare per gli altri le forme più cordiali della vita. Quando arrivano la grangia è vuota, in disordine e bisogna andare a cercare notizie al villaggio, solo lei può andare. E allora, addio vagheggiato sogno di una presenza femminile, d'abbandono al calore di un conforto materno. Mi lavai le mani e la faccia, mi pettinai alla meglio, tolsi i pantaloni ormai a brandelli e misi la gonna che fortunatamente mi ero portata nel sacco. Riassume abiti e ruolo femminile. C'è questo passaggio continuo da un ruolo all'altro e va nel paese. Non c'è accanto, diciamo che accanto al materno, questa dimensione del materno, come ciò che rimane immutabile nella tragedia della storia, ciò a cui si ritorna, fondamento etico della continuità della vita. C'è anche la ricerca della libertà, l'esplorazione di nuovi mondi e nuova vita, anche del rovesciamento dei ruoli sessuali. Vi accenno brevemente alla storia di Elsa Oliva, contenuta nel volume appunto La Resistenza Taciuta, 12 vite di partigiani piemontesi. Elsa Oliva nasce nel 21 in un paese del Novarese, una famiglia antifascista, ha fatto la partigiana prima a Bolzano e poi in Val d'Ossola nei 40 giorni della Libera Repubblica dell'Ossola, è comandante di una volante partigiana. Racconta della sua infanzia, ero sempre in mezzo ai maschi, a fare giochi da maschi, spalleggiata dai miei fratelli. E ci eravamo fabbricati delle spade di legno per i combattimenti, quasi una premonizione di quello che lei farà da grande, appunto la partigiana combattente. Comincia a lavorare bambina, molto piccola, a fare pulizia nelle case dei signori, ma a un certo punto, quando eravamo più grandicelli, di 14 io e 15 anni mio fratello, stanchi di quella vita di lavoro e per seguire la nostra passione per il disegno e la pittura, siamo scappati di casa, siamo andati in un'altra valle, la Valsesia, e lì cominciano a fare i pittori, a dipingere e vendere quadri. E poi, e dice, forse anche per questa vita c'è stato facile inserirci subito nella lotta partigiana e combattere. Da lì poi va a Dortisei, in Val Gardena, dove dipinge giocattoli di legno, ed è un personaggio strano essa, vive da sola in una casa isolata, con una pistola e un cane per sentirsi sicura. Va in giro con pantalonacci, con la chiave di casa di ferro legata alla cintura, i capelli neri lunghi. E l'8 settembre la coglie a Bolzano e entra nella resistenza e dice: avrei potuto servire la resistenza come informatrice, come staffetta, stando all'anagrafe come quasi tutte le donne facevano. Invece ho capito che io volevo combattere con le armi in mano. E poi viene arrestato dai tedeschi, riesce a fuggire, ritorna a Domodossola, a casa, ma dopo qualche mese dice alla madre: vado anch'io in montagna. Ecco, invece abbiamo un esempio, una donna che va in montagna. È il mio destino, lasciami fare. E va appunto a combattere in montagna. Però dice: appunto fa la resistenza come combattenti, rifiuta compiti di supporto. Curavo i miei compagni, ma non li servivo. Io non ero andata da loro per lavare i piatti, per attoccare i pantaloni. Io ero andata per combattere. Va bene, allora chiudo questo, sperando di essere, di restare, sarà difficile. Comunque chiudo con parlandovi della figura di Giovanna Zangrandi, partigiana e poi diventa scrittrice, perché appunto nei suoi romanzi, nei suoi libri, la presenza della montagna è ricorrente, e anche vedremo con quale valore, diciamo. Ecco, c'è da dire che Giovanna Zangrandi nasce con un altro nome, Anna De Villacqua, in una in pianura vicino a Bologna, quindi la zona della sua, la terra della sua infanzia è la Bassa, la Palude addirittura, che lei associa alle affari familiari, alla malattia degli zii e alla depressione del padre. Poi lei, vabbè, dopo essersi laureata in chimica, si trasferisce a Cortina d'Ampezzo, dove va ad insegnare. E qui avviene la metamorfosi da ragazza di pianura e di città a donna di montagna, nella quale si identifica totalmente. E l'8 settembre e l'adesione alla resistenza rappresenta anche per lei il passaggio a una nuova identità. Attraverso poi la scrittura avviene la metamorfosi dalla giovane emiliana e cadolina di adozione, villeggiana al 100%, come è scritto nelle quarte di copertina dei suoi libri. Due polarità dunque contrapposte, la palude e la montagna, che sempre affiorano e che connotano la sua personalità. Allora qui salto, tutta la parte più bella di scrittori, e per dire che appunto tutti i suoi libri raccontano vicende che avvengono in montagna. La leggenda delle Dolomiti del 51, i Brusati del 54, Orsola delle Stagioni del 55, il Campo Rosso del 59, che è la storia della costruzione di un rifugio alpino, da lei costruito, e che gestirà per qualche anno in montagna, appunto. E poi il suo diario partigiano, I Giorni Veri, che uscirà nel 63, che è un romanzo di formazione femminile, così come La casa sulla Mantenica della Tina Berlin, attraverso il quale appunto Alma diventa la partigiana Anna e poi la scrittrice Giovanna. Ecco, Giovanna ha una grande capacità di creare personaggi femminili nei suoi scritti di straordinaria forza espressiva, dalla fisicità elementare e dalla istintiva saggezza. Scrive Antonia Arslan a proposito di questo: le donne radicate nell'essenzialità delle piccole cose del vivere quotidiano, che da sempre costituiscono il tessuto della realtà che le circonda, a loro viene affidato dall'autrice il messaggio morale della continuità atemporale delle verità umane, più profonde, una femminilità fortissima e rocciosa che sa tenere duro anche quando gli uomini crollano, che è appunto la resistenza, ma senza sparare, senza uccidere. Sono queste donne, queste rocce che Anna riconosce come madri vere, quelle che custodiscono la vita. Ecco, ritorna anche in lei il tema della montagna madre, sia nel senso del rifugio, ogni paese, ogni casa, ogni grotta, ogni nascondiglio, che anche fonte di nuova identità, una nuova origine, figlia per libera scelta delle forti madri cadoline, le grandi madri della resistenza, come le chiama lei, quelle che nutrono, salvano, sono pronte a cogliere. E cito: la resistenza fu più vasta del risorgimento, spontanea, popolare, non so se solo dai salotti, ma tanto più dalle cucine, dai casolari, dalle fabbriche. E devo tanto alle donne delle cucine, alle scalcinate soldatesse dei pedali. Mi avvio alla conclusione. Vediamo se riesco a tagliare un po'. Sì, c'è questa dimensione del femminile mitico, della Vigea, la terra, la madre terra, nei suoi libri. E anche appunto figure femminili contrastano con il ritratto della staffetta Anna, che invece è tutto maschile. Conosceva frate e buchi, camminava come un gatto, descrivendo indirettamente se stessa: era brutta, piccola, larga e magra, ma di acciaio, un volto da mongola. Quell'Anna se ne andava con i suoi piedi spietati, mica li posava per terra, non faceva rumore, ma come un fantasma. E altrove si descrive come una ragazza in calzoni dal volto abbronzato e dal piglio sicuro, che viene scambiata per un montanaro. Torna il motivo dell'ambiguità sessuale, della ragazza ragazzo, anzi, del ragazzo travestito da ragazza, ricorrente nella sua scrittura. C'è che anche rende, come dire, la percezione di sé come donna mancata, perché non si sposa, non avrà figli, che si traduce nella scelta di una vita maschile attraverso la resistenza. Il rifiuto del passato fa di lei una sradicata, la selvaggia barbara. Anna non ha padroni né servi, non parassiti. Zingara è Anna, senza pietà, senza passato e ricordi. Zingara fatta di strade e di presenze. Lei, appunto, in lei c'è questa ambiguità anche sessuale, se volete anche l'assumere una figura maschile, e si risente tantissimo nei confronti dei compagni partigiani, i quali non la vogliono in banda, perché non vogliono donne in banda, e si sa, dice: mi dovrò arrangiare. Tra l'altro lei è ricercata. La partecipazione alla resistenza è interpretata nella scrittura anche come ritorno alla madre, e che lei a un certo punto recupera. Adesso qui l'ho detto di taglio, ma chiudo dicendo appunto che la scrittura poi diventa il recupero del rapporto con la madre e la maternità negata, la scrittura come figlio. Nel maggio del 45 la Zangrandi recupera tra i sassi della Memora, in alta montagna, dove si era rifugiata, i quadernini di appunti e note scritti in momenti diversi durante la guerra. E questo gesto potete intuire, no? In cui potete intuire il valore simbolico del tirar fuori dal corpo della madre terra, no? Appunto questi quaderni. E dice, e con questo chiudo: un periodo durissimo passato in assoluto al ghiaccio contro una roccia a quota 2000, non grotta ma un piombo delle Marmarole, ai margini di fitte faggete. In questo pittoresco distaccamento Memora, dentro una scatolotta da maschera antigas, io avevo sotterrato quaderni, appunti, promemoria, cifrati, infantili, esuberanti, letterariamente orrendi, ma che poi mi furono utili per la cronologia. salì a cavalli e a recuperarli molto tempo dopo la liberazione. Attraverso una scrittura autobiografica mette al mondo se stessa, dà corpo ai suoi valori e li consegna alle generazioni. Grazie.